significa le verdi colline d'Irlanda. Tu colorata ricopri il sole, ti bacia il vento, ti sfiora la luna, ti bagna di fresca rugiada. Io pellegrino da lungo cammino, vicino a te mi riposo, stendo le braccia, un fiore accarezzo, respiro il profumo del tuo verde manto. Vola, rondine, vola, chiama il mio amore, dimmi che sono arrivato, da lungo tempo ti aspetto, donami i baci della tua bocca. Vola, rondine, vola, dammi i tuoi baci, dammene mille e poi altri cento, poi ancora mille e altri ancora fino a perderne il conto. Erica forte, respiro del mare, brezza che soffia frizzante, dolce sorriso di un nuovo giorno, raggio di luce che guida il mio cammino. Piccolo lago d'amore, di suoni, dolci parole mi doni alla tua fonte, tu mi fai bere, ora son pronto per un nuovo cammino. Vola, rondine, vola, chiama il mio amore, dimmi che sono arrivato, da lungo tempo ti aspetto, l'ora di baci della tua bocca. Vola, rondine, vola, e dammi i tuoi baci, dammene mille e poi altri cento, poi ancora mille e ancora altri fino a perdermi il conto. Sul nostro cammino, infine in silenzio insieme staremo a guardare le stelle.